Oh, Fabio, qua. Fabio, ecco. Mamma mia, come sto? Cosa c'hai? E cos'è, papà? Niente, io non c'ho mai niente. Ho detto, mamma mia, come sto? Adesso porto un attimino il cane giù, da. Cosa, lui? Non ho capito. Ho detto che porto un attimino il cane giù. Fai, io tanto c'ho la pressione al fuoco, la devo tenere sotto controllo. Un di pollo che ho in terrazzo, però ho circa 2,5 metri K. Ti sta arrivando? Prova a vedere. Guarda il segnale, vedi un po' quant'è così per terra praticamente. 9,5 con picchi positivi a 9,10 secco 4,40. KK, vabbè, è interrato, vai. È interrato con tutti gli accrocchi vicini, poi l'ascensore, tutti i muri e tutte le palle varie. KK, va bene, così è. Alla grande, non c'è problema, vai benissimo. Vabbè, sono qua lui, quando vuoi chiama che sono qua attivo, che sto facendo roba K. Sì, ti stavo mandando il video, ecco perché non ho potuto rispondere. Cazzo, me ne mandate là che hai già battuto il telefono, vabbè, dopo me lo guardo, vai. Infatti, quando te li guardi tutti insieme, poi. Giallo, vedi giallo. Ehi, dopo più tardi, adesso sto usando mia moglie. Dopo più tardi mi riguardo, sicuramente ne sarà arrivato qualche altro messaggio, qualcosa, vai. Va bene, sono qua, dai, ci sentiamo dopo, ok? Ehi, ok. Davvero? E beh, là. Dimmi qua, Sean, sto guardando la TV. C'era Luca che stava provando di polo. Sì, come mai ti ha buttato giù con l'antenna? Portala direttamente a Luca, poi se Luca ha bisogno di me già lo sa. Così la misura prima col misuratore d'antenna, con l'esattore d'antenna. E analizza a vedere se effettivamente l'antenna è efficiente o non è efficiente. A quel punto lì si apre, se no non la tocchiamo. Se Luca dice che l'analizzatore d'antenna è a posto, perché quello non sbaglia, vuol dire che la posizione lo vuole tirata su. Vabbè. L'analizzatore fa i calcoli, no? Tutto ti dice dell'antenna, si chiama proprio analizzatore d'antenna, ti dice tutto. Capito? Ti dice tutto. Lui attacca l'analizzatore, ti dice se è in corto, se è stazionario, se tutto ti dice. Tutto. Ci accendiamo la luce qua, va. Facciamo anche un po' tattilino. Andiamo a caricare un po'. Oh, via cazzo. Ecco qua, va bene. Va bene, mi ho ordinato un display per un coso, per un... come si chiama? Per un cellulare. Vaffanculo. E poi mi hanno regalato... Bellino mica, solo che lo devo riparare, devo cambiare il display. E il copribatterio, una C460 di euro sistema, un Samsung Galaxy A3, bello, proprio bellino come telefono, piccolino. Oh, vabbè, via da te, se ripara, io già me lo so, non ripara, manco, ci vedo più, non l'ho fatto una difficoltà a espandere la radio, guarda, allucinante, perché ho dovuto staccare una resistenza, poi non riuscivo più a puntarla per risaldarla, perché ho fatto grande difficoltà. Meno male che ho degli occhiali un po' più spessi, che mi metto da vicino, proprio da vicino, e sono riuscito a saldarla. Se no toccava a chiamarte a Sardamira, allucinante. Infatti non tocco più niente, mi sono rotto le balle. Adesso devo andare a fare un'altra visita e sicuramente basta, questa volta mi servono gli occhiali per forza. Ce li ho ma non li porto, me li ho fatti un sacco di volte, non li porto perché non mi piacciono, non riesco a tenerli, capito? Però a questo punto sono costretto. Io riuso gli occhiali, che ho, adesso c'ho gli occhiali. Che senza, sì, vedo, però ormai vedo meglio con gli occhiali. Quando esco e guido non le metto. No, sennò mi braggheggiano. Io sono così a casa, là. Quando c'ho il telefonino che devo leggere qualcosa. Tipo adesso vedi. Senza occhiali vedo, vabbè, so che sta facendo un aggiornamento al telefono, però con gli occhiali vedo installato un aggiornamento di sistema 50%. Senza occhiali non lo vedo. Un casino, un casino. Dopo è 40, così è. Io da lontano vedo la mosca. Tu immaginati che io ci avevo una patente guida con lenti e me l'hanno annullato in prefettura, capito? Perché io vedo da lontano, non è che non vedo a leggere, non vedo a leggere, a fare le cose piccole, non vedo da vicino, non vedo, sono ipermetro, da lontano leggo la moja, capito? Quindi non è un problema per guidare, quindi me l'hanno annullato, se no avevo guida con lenti, la patente. Perciò è un problema da vicino, solo da vicino. E per certo anch'io, io se mi mandano audio va bene, ma se mi scrivono qualcosa mi devo mettere gli occhiali per leggere, e cioè i caratteri più grandi che ci sono nel telefono non li vengono mattessi. La vecchiaia è carogna, buonasera. Ciao Luciano, salutoni anche a te, ben sentito. Il telefono te l'hanno dato, va, saluta Luciano, poi mi rispondi, va. No, lui ancora non me l'hanno dato perché c'è un casino, ciao Luciano, c'è un casino col contratto che avevo prima, perché il contratto, come ho detto a Luca, non è intestato a me, è aziendale quel telefono, capito? Era dell'azienda, quindi adesso mi devono mandare il nulla osta e poi devo fare la voltura, se no non posso cambiare compagnia, perché il telefono non è intestato a me. Nel telefono e nel numero purtroppo. Va bene, ciao Luciano, buonasera, ben ascoltato. Ascolti lo sparviero qua. Certo, che conto lo sparviero, qua mi indice gira lì, scendono le curve, vedete. Ah, torna che da strada buona se prendimi. Invece non li tagliano, c'è troppo costo, Luciano, capito? Quindi non li tagliano. Bene, bene, no, stai arrivando benissimo anche tu, non ci sono problemi. Vai Luca. Non so se mi ascolta, mi ascolti Luciano? No, non ti ascolto, no. Poco, guarda, vabbè, io ce l'ho tenuto un po' messa male, Infatti, questi giorni qua mi sono bello, anche a 26 gradi sale la temperatura, solo che non fa, c'è in primavera, là, ci butta a terra, cambio il palo, mi sa che ha buttato a terra del tutto, cambio anche le staffe, metto quelle belle, che Roberto me le ha proposte, me le costruisce lui, ma ci prende il materiale, me le fa lui, tipo quelle che c'hai tu, Micla, lì a carbonato. E quelle ci voglio a tirafondi lui, a tirafondo, le metti il chimico dentro e sai pur certo che ce l'hai visto, no? Vale, non te ne ho detto come sono organizzato io. Adesso una piastra, perché lì ci vuole, piantone ce l'hai visto, canto beige, canto grosso. E il sistema antenna e il montaggio antenna deve essere, soprattutto per questa altezza deve essere fatto bene, altrimenti viene un po' tutto. Non lo so, lui, sto decidendo se fare quel cambiamento che ti ho detto, spostare la mantova dove c'è la bibanda, capito? Non lo so, vedo un po', se la giornata è bella, invece di uscirmi e andarmene in giro, farmi un giro in moto, una giuvizia iragana, me ne salgo sul tetto e mi faccio quello spostamento. Avanti Lucia, prima che arrivi a destinazione. Ancora ce ne vuole arrivare a destinazione. Comunque, tornando agli occhiali, ci vogliono. E una giurma vedantana e una vizina. Lucia, ma io li solo per a casa ce li ho, ne ho due paia, non ho problemi. Il problema è quando esco, mi dimentico sempre di portarmela appresso, a volte arrivano messaggi nel telefono, le busso di G. Infatti mi coccato ma non rispondo ai messaggi, non vengo, cosa hai scritto, cosa ti rispondo. Allora quando arrivo a casa lo controllo, lo leggo e poi rispondo. Capito? Pure se vado al supermercato che devo vedere un prodotto, una scritta, una cosa, non vengo. Mi sta abbassando tantissimo la vista da vicino, da lontano vedo il mondo, Lucia, vedo qualsiasi cosa, non c'è problema, il problema è a leggere, quindi mi devo abituare a portarmeli appresso, perché non è che posso munire i piccetti fissi, capite? Non mi interessano meglio gli occhiali fissi, mi interessa averli appresso per poter garantire quello che devo leggere, se no non vengo una mazza. Caparrogero, allora ti devi prendere l'abitudine, te li appendi al collo oppure ti ridere in borsello, al momento che ti servono ce li hai. Però cazzo è un casino, quando da vicino davvero anche a me mi dà un sacco di problemi, Non riesci a leggere, non riesci a vedere ed è un casino. Lo so, già, è un casino, sì, vabbè. Mi dovrò abituare, da no qua ce li ho, non vengo manco lo smitter, se mi domandano un controllo maggio dei buoni piccetti verrò tutto ombroso. Infatti c'ho negli smitter delle radio, vabbè, le altre, quelle grandi HF già si vede, ma queste che sto usando le ho cambiato tutte le lampadine, gli ho messo i led bianchi, belli visivi, perché altrimenti non vedo il segnale. Vai lui. Io lo stesso sono come te, da lontano vedo benissimo, da vicino, molte volte dipende, devo stare lì a mettere a fuoco, spostarmelo, ma non ci riesco, tipo adesso, mi faccio un esempio, c'ho il telefono in mano, e non riesco, qua ci metto gli occhiali, abbasso, mi scelgo, adesso vedo tutto, vedi, massima protezione della vostra vita mobile, si vede benissimo. Lo so, neanche io sono così, non vedo praticamente quello che leggo da vicino, però da lontano ho una bella vista, infatti me l'ha detto l'oculista, ma tu sei per metro, per quindi cosa che ti faccio? Devi tenere gli occhiali quando leggi, già mi ribongo, ma poi sì, non mi rimbocco mai. Dove sei arrivato, Lucia? Qua mi sto attraversando la bretellina a queste perre. Il discorso è quando poi non li metti, sforzi anche di più la vista, capito? Ed è peggio, poi è peggio, vai a fare un controllo e ti peggiora sempre. Infatti quello mi ha detto il Torpidino, mi ha detto guarda che stai peggiorando da vicino, cerca di mantenere gli occhiali almeno a casa. Infatti metto la televisione, vedi, certo che la vedo, se ci sono scritte piccole non le vedo da vicino, ma siccome io sono lontano vedo tutto, sono 3-4 metri dalla TV, quindi no, vabbè, 4 metri no, 3 metri sì, dalla TV, dal divano, e quindi vedo tutto, non me la fotte nuda. Ho detto, Lucia, stanno asfaltando qua in via, come si chiama, in via La Malfa, dai, questo Via Al, cos'è? Che dite? Viabila. No, so che stanno fresando, stavano, o anche asfaltando stanno. No, stamattina stavano fresando, però penso che asfaltino anche, no? Una volta che finiscono di fresare, sì. C'erano due camion di Loriga caricando il catrame. Caparrogero, la settimana scorsa erano a Signori anche loro, che stavamo fresando anche noi. Vai. Volevo chiedere a Luciano se Giovanni lo sta sempre modulando, Giovanni è l'originale. Sono un bel pezzo che non lo sento, l'ho visto, sarà una quindicina di giorni fa, l'ho incrociato per strada, però era al telefono e quindi non abbiamo avuto modo di parlare. Capito. Ogni tanto lo vedo su Facebook, mi commenta. Pure solo un po'. Siccome lui se ne va alle 45 magari, se incontra qualcuno, incrocia qualcuno, vedi. Prima c'eravamo di gente, adesso che ci siamo noi, mi Lucia, se no non vedo nessuno. È positivo, è vero. Ma l'ho sentito tempo fa, ti ripeto, ed era con il Vulcano, però sicuramente Giovannino c'aveva problemi, perché Luigi gli diceva che non stava uscendo male, tutte cose. Sì, Mi sa essere l'unico che sarà tenuto, anche se non c'è nessuno nel baracchino. Perché tutti si hanno bugato da Bugabio? Davvero, fa sempre piacere, dai, da voi. Se non lo vuoi trattare negli studi, ma già che c'ho cazzo del telefono, lo odio. Mi avanza il lavoro e sempre squillendi, e dove sei e quanto ci vuole arrivare, chiedo che d'altro, ma vaffan cuffia. E a rompere il male, riprendi il cane e porto l'acqua al cane. No, pensavo dovevi bere tu, mi sei sempre Massighelli. Mi quello che ho detto io a Massimiliano, mi, che siamo sentiti per telefono. Non a te c'è goccia, Lucia, io lo odio il telefono. Forse perché ci ho condiviso 30 anni con un telefono, capite? Già da quando sono usciti io avevo il telefono per lavoro, perché purtroppo l'ho sempre avuto. E forse per quello che mi ha stufato, capito? Quindi non me ne ha fatti nulla. Proprio lo odio, non me ne frega niente di stare su internet, su WhatsApp, su... Capito? È sempre silenzioso. Infatti dice, ti ho chiamato e non mi hai risposto, perché era silenzioso. Non me ne ha fatti proprio nulla. Perché così? Cazzo, il mio iniziavo, io come mi sedevo in macchina, Lucia, partivo da casa alle 6 e un quarto, cazzo, dovevo essere alle 7 a Sorso a timbrare all'impianto di Sorso, al depuratore di Sorso. Cazzo, mi fermavo in via Pasquale a pigliare un caffè, 6:20, 6:30, già, già arrivando, sai, cazzo, mica io devo timbrare alle 7, mi goccia voi a che ora? Mi sto prendendo il caffè, sto facendo colazione, mi sto dando un'occhiata al giornale. Cazzo, ma poi ci vengono drumidi? No, perché devo arrivare, sfiga, con i cascioni, le fanghe, volevo sapere dove le devi posizionare. Cazzo, quando arrivo a Sorso mi lo dì, dalle 6 del mattino al telefono, Luciano, dalle 6 del mattino, una cosa impressionante. Ti credo, perché ne vedo altri che proprio sembra che si possa vivere senza il telefono, eppure abbiamo campato millenni, si può dire, cazzo, e avanti non se ne può fare manco, cazzo, ma che uno si rubocchia pure in gabinetto, ma chi lo vengo da me figlioli, io, cazzo, è una cosa vergognosa, a tavola lo stesso non si parla più, è sempre attaccato anche sul telefono, vaffanculo. No, lo c'ha, mia figlia c'ha 33 anni e telefono a tavola non ce n'è. Quando esce dal lavoro, che ho pranzo, ho cena a casa, capito, perché anche lei fa dei turni, lo appoggia da una parte perché vi ho giunto una volta a giuro. Quando sei a tavola fammi la cortesia di togliermi da mezzo alle balle questo telefono. No, ma perché mi stava scomacciando il ragazzo, vabbè ragazzi, ci sono 10 anni. Perché mi stavo aspettando, ma vabbè, lo sposti quando squilla il messaggio, vai e te lo guardi. Boh, cammini che ti ho cantarano, venate alla banca, vai piazzire. Perché quando stiamo mangiamo, discutiamo, parliamo. Non agitiamo che ti ho gatto il telefono alla banca. E non l'ha più fatto, No, è così. Forse siamo andati troppo prima, non lo so, comunque. È diventato proprio una cosa impressionante. E niente, tornando ai CB, sì è vero, non ce n'ha più nessuno, o qualcuno che ce l'ha, dice non accendi, intanto c'ho il telefono qua e là, quindi, però da, a me mi è sempre piaciuto, sì non la Giovanna, li risudo e buonanotte. Ma te sei goccia di ringo, io se ne ho voglia parlo, se no sto in ascolto, Lucia. Dipende dalle persone che ci sono, dal dialogo che c'è, dalla voglia che ne hai, da tante cose. Se sono cose che ti possono interessare, se uno sta parlando di cose che non mi interessano, io non mi metto in mezzo, capito? Quindi è reciproca la cosa. Io, figurati, ho cominciato nel 74 a casa di mamma, siamo nel 2021, fra un po' c'ho ancora in occhi e c'ho tutto quello che serve, perché lo sai, no? C'ho tutto, però a volte non ho voglia manco di accenderne, secondo le giornate manco da sindirmi a giocare, oppure se questa l'accendo o gli altri K li accendo è perché devono rimanere accese, altrimenti si rovinano, ma gli altri radio, quelle più grandi, sono sempre trovati, li accendo ogni tanto. Dove sei arrivato? C'hai un segnalone? Quasi arrivando allo svincolo di Bancali, superato con Forama, diciamo, dai. Cappa Rogero. Ehi, hai ragione, hai ragione. Poi ci sono le giornate, giustamente, che non ha giocato di nulla, la fa cuffia, non è cosa né radio, né baracchino, né telefono, e buonanotte. E si conferma, Lucia, è proprio così, infatti, sono giornate no, è giornate che fa piacere scambiare due chiacchiere, quando naturalmente non ti rompono le palle, io sono un po' anche, un po' lunatico, mi incazzo subito, quindi quando mi rompe la palle chiudo tutto e mi avvio, no, non mi interessa più stare lì a discutere, a combattere, a fare, no, non mi interessa. KK, vediamo Luca. Io sono sempre qua, mi sto smontando un telefono qua e vi ascolto, sono qua comunque. Ehi, smonta. Ricordati che fatti spazio per questo computer, Lu, perché prima di fine mese, adesso mi serve perché doveva controllare alcune cose d'aria, che ha fatto degli ordini, lei già il coso suo, appena arrivi di sta roba smonto tutto e te lo do, quindi fatti spazio, avvisami quando sei libero, così lo resetti tutto e lo mettiamo in vendita, perché sempre in Chivia un abbatti e devo togliere anche la scrivania. Avanti, Lucia. Vabbè, pensavo che Luca era smontando Lucania, certo? Lucania a pezzi e fende. No, Luca fa lavori che sono in pochi a Sassari che ne fanno, prepara telefonini, televisori, computer ed è anche molto bravo. Non è un radiotecnico, non ha laboratorio, però si è organizzato bene a casa sua e fa queste cose. E c'ha le mani d'oro, io qua stavo buttando il telefono a mia figlia che ha avuto interesse e paccato in due. Gli ha ordinato tutto il display nuovo, tutto, era tutto smontato, l'ha fatto nuovo praticamente. Capito? L'ha fatto nuovo. C'ha questa passione, ha imparato bene e quindi fa queste riparazioni. Bravo, buono a sapersi, vedi? È un medico se secondo cos'è, stai girando in un capo oppure in un altro, intanto ci vuole più aggiustarlo che a riparare, che a comprarlo un'altra. E invece qualcuno si diverte, è vero, è buono, dai. Buono a sapersi, Cappa Rogero. Te lo dico perché è successo a mia figlia, quindi telefono da 300 euro, ne peso 80 e ce l'ha rifatto nuovo, perché buttarlo via? Capito? No, non è così che funziona, se il telefono è un telefono buono perché lo devi mettere da parte. Si ordinano i pezzi, lui c'è al suo sito, ordina tutti i pezzi originali, nuovi, e a smontare un telefono non è facile, per me sicuramente non è facile. Ma no, che ci abugeggono, perché è proprio una cosa che non riuscirò mai a fare, no? Assolutamente, ci sono queste micro cose che solo lui può mettere mano, per carità. Lascia più lì. No, per carità, vedi, mi sarebbe piaciuto arrangiarmi, non dico essere un professore, ma arrangiarmi sul fatto dei baracchini, vedi, lì qui mi sarebbe piaciuto un po'. Ma anche il baracchino non è a entrare un gaccio a vite, lo c'ha, è toccare i dreamer, o tocca liscio, o tocca ghidato, non funziona così. Anch'io qualche riparazione, baracchini, non me ne dare perché non so manco come si aprono, però queste radio così, tanti anni che le uso dall'87, quindi qualche riparazione, qualche cosettina me la so fare, ma non so fare molto, qualche cosettina così, capito? Però ci vogliono gli strumenti per fare, ci vogliono le cose fatte bene, perché a toccare un trimmer che è sempre una resistenza variabile è molto facile, Lucia, entro un cacciavite ripulsi, però devi sapere anche se quella resistenza variabile fa solo quella oppure fa anche altro. Se tu tocchi quella, stai aggiustando quella e stai sfasciando un'altra cosa, ci vuole tutte le attrezzature, analizzatori, ci vuole tutto quello che serve per poter lavorare bene, perché a toccare le radio a entrare in un cacciavite dentro vi sono buoni tutti, alla voi sposti una media frequenza te la prendi in culo. Eccetera, ma su quel fatto lì proprio nulla, veramente. si conferma. Ascolta, domanda di riserva, Lucia. Ma è tutti i miei amici quando io ero a Perfugas. No, non hai raccattato più nessuno, non fai più nessuno. Oh, ecco qui, e chi c'era? Pietrino. Ma Pietrino se ne è andato in pensione. E quindi no, non c'è più, di quei vecchi non c'è più neanche uno. Quando ero a Perfugas facevamo certe bevute lì al gallo d'oro, ma ti cazzo chiama già gallo giallo, gallina gialla, boh, ma ti canarino, ma ti chiamava Sciruppo. No. C'era una bella graffetta, Piero, boh. Mi ricordo, Piero oppure Gavera. E un sacco di gente c'era quando ero a Perfugas, io ho fatto ammortizzatore. Infatti come arrivavo alle 2 timbravo e andavo lì al piazzale lì, no, che nella strada circonvalazione che va a Erula, e ci prendevamo il caffè, stavo un pochino con loro, poi mi rientravo all'impianto, mettevo tutto in automatico e vabbè, perché avevo la radio lì, capito, mi avevo messo l'antenna, c'era una Grand Prix, c'era grande lì all'impianto, mi portavo il baracchino quando ero di turno la sera, che sempre fa vedere, arrivi a Chiaramonti, a Ozieri, a Oschi, da tutte le parti arrivavo. La gira quando rientravo dai camionisti ero sempre con lei per fa vedere. Allora già ce n'era, c'era la famosa, la tribù che balla di Badesi, Santa Maria, Vitalba, e allora già ce n'era. Oramai non c'è più nessuno. Era in tempi socialmati, grazie. Molto. Glielo credo. I tempi sono cambiati per tutti, si invecchia, vabbè, pare la tradica, se vuoi a due anni, quasi tre anni gioco a casa, dal 2017, vabbè, 2017, da novembre del 2017, ho fatto tutto il 2018, tutto il 2019, cazzo, è pure 2020, a novembre, un mese che tra fatto tre anni che gioco a casa. Sta correndo, sta correndo il tempo. E fate il conto che io a Perfugas c'ero perché ero a Cagliari nel 91, sono arrivato a Perfugas nel 96-97, quindi fate un conto, due di so. Ma è così, io nasce male bene, a Guidelli, la verità si dica, ne ho le scatole piene, anche perché prima uscì dalla madre con la sei sempre afferrato. E una volta messo voce, per esempio, mi ha giocato una manovra e ci ho rimesso un cerchio e una roba. Fatica di te, capito? Quindi, muri per atto. Perché tu sei contro il tuo, no? Il cambio è tuo, come Giovannino. Caffa Roggero. Che sono, mamma mia, che non vai che ti danno i cuscini, no? Oi. Ascolta, Lucia, non sei rientrato come quello degli autisti, lavoro usurante, non ce l'hai l'età, i contributi? Vabbè, come lavoro usurante te ne danno due, mi sembra. Due anni ti danno, quindi non ci rientri. Io avevo approfittato proprio di quello, però io sono andato come lavoratore precoce perché ho iniziato a 16 anni, quindi ho iniziato prima del 18° anno di età e mi hanno dato due anni in più, mi hanno aggiunto, altrimenti io sarei andato quest'anno, a gennaio del 2021. Io non sono preoccupato per me, no, Lucia, credo anche tu perché hai già dato, anche se ti manca qualche anno, ma hai già dato. E io lo stesso, io sono preoccupato per mia figlia che non si sa come andrà a finire, capito? C'è una ragazza che ha iniziato molto giovane anche lei, molto giovane anche lei, ha già quasi 15 anni di contributi, quindi ne ha 33, perciò... Ha iniziato molto giovane, molto molto giovane, perché studiava all'alberghiero e lavorava, ha sempre lavorato, perciò, però bisogna vedere cosa aveva da voi, quando sono più grandi, capite cosa succede? Ah beh, si conferma, è proprio così. Grandi sono i tuoi figli, Lucia? E quindi va, il maschietto intrapreso pedale, pedale. Laureata è la femmina? Cappa Rogero. Laureata in giurisprudenza, però ha voluto fare tutta un'altra cosa. Lui ha tanti anni di studio. No, mia figlia è diplomata all'alberghiero. Poi c'era scritta all'università, però ha detto papà io preferisco lavorare, quindi si era ritirata. E lei era in lo stesso in giurisprudenza, mi ha suggerito mia moglie in giurisprudenza, però chiaramente aveva già lavoro, quindi non ce la faceva, aveva fatto un po' di esame, ma era troppo sacrificata e si è ritirata. E grazie a Dio era entrata alla McDonald's, è rimasta 10 anni. Anche lei è nel settore bar. Anche lei nel settore bar lo c'ha, quindi è un lavoro massacrante che in arrivi distrutta, però è per lei. E quindi quello è quello ha scelto, e allora fai cosa vuoi ti dica. Certo che serve, tutto serve, anche mia figlia per intraprendere quel mestiere, ma ha iniziato che aveva 15 anni, capito? Addirittura ha lavorato con la catena, con la multinazionale, quella spagnola, la catena Miglia, quella di Olbia, infatti si era voluta rimbursare fuori, ha detto no, troppo piccola, rimani in Olbia, cosa mi siamo vendi, ma ve la vai, che sono giù una e una messina in bocce, no. E quindi è sempre rimasta qua, c'è il bar via Roma, adesso stiamo aspettando che passi questo, dico una parolaccia, questo cazzo di Covid, perché mi sono già rotto le palle, e poi intraprende la sua attività vera e propria, dai. Capito Lucia, però è il suo lavoro, le piace, da ragazzina che lo fa, quindi va bene così, le sue soddisfazioni se le sta togliendo, se le ha tolte, continuerà a togliersele, a me non mi è venuta Lucia. Ciao Lucia, un abbraccio grande, ben ascoltato, già lo sai che io mi chiamo Torre di Controllo, quindi se non arrivi a me sei quasi in off, non c'è problema Lucia, alla grande. Un abbraccio, buon rientro a casa, saluti, è un piacere mio averti ascoltato, quando vuoi Gerusalemme c'è qui sempre Nobi, ciao! Ciao Ginobi, Lucia, ti ascolto pure io, un po' basso ma ti ascolto, ciao Lucia, buon rientro, buon tutto alle prossime, ciao! Sentito la Luca ti ha salutato, ciao, ehi, ciao Lucia, ti ha sentito basso, vai, Olu. Va bene. Che regge questo 430, va? Buonasera a tutti, Gio. Poi Massimino Bulldozer, allora va, se ne è andato Luciano Gattramina. Non sono Massimo. È Tonino. Ah, Tonino, che cazzo di tavolo di Gozzo, di Massimiliano? Ciao anche Luciano, se mi sta ascoltando. Chiuso Luciano, e a te già ti ascolta da lì su. Ecco, allora. Ciao Claudio, ciao Luca. Ciao Doni, buonasera, ben ascoltato. No, al primo impatto mi sembrava Massimiliano. Infatti il tubito nano oggi in radio. Ora sono sulle 6:30. Sarà appena arrivi da casa, poi guarda, ci facciamo. E allora, ma tu lavorando stai lavorando o sei ancora in ferie? Io tutta questa settimana a casa, poi lunedì riprendo. Hai compreso, quindi te ne hai fatto due ghetti. Tre. Ah, tre settimane. Vabbè. Questa settimana è bello, Tony, questa settimana è molto bello. Non ho visto. Domani addirittura abbiamo 18 gradi, 18-19 gradi, poi mercoledì sale anche a 22-23, quindi giornate belle, quindi se devi fare qualcosa falla, approfittane, l'hai saldato quel cartone che ha tramato, no? Ma che... non è quella perché lei nel disco mi rompe le palle, capito? Domani mattina forse qualcosa la faccio. Io non ti posso aggiudare, Tony. Perché guarda, mi sto riprendendo. Anch'io ho di nuovo grossi problemi. Pensavo fosse terminato, e invece ho grossi problemi. Come sforzo appena appena. e ti dico che le antenne me le hanno smontate Luca e Luca, io ho già fatto ben poco, però è bastato quei 2-3 sforzi che ho fatto per mettermi a capo, ed era una settimana anch'io con questa fitta alla schiena che mi stava dando fastidio, capito? Quindi devo fare la brava. Infatti non sto andando manco in cantiere, non sto facendo niente, gioco a casa, ma non me ne fotte nulla, non sto a casa perché c'era un bel di freddo. Adesso questa settimana che è bello, vediamo un po', se c'è qualcosa da fare la facciamo, e se no me rimango a casa lo stesso. So tutto, anche se sto entrando poco. Ma io 8 pugni me ne sono saliti, me ne sono messi, non è più come prima, C'è qualcosa, qualche piccola perdita, perché adesso, infatti devo salire in altre 6 pizze, sono a posto del tutto. Ma cosa l'ho preso? Sei tutto, cosa? Chi ti ha smontato l'antenna, Luca. Vabbè, non è che giugo a nulla, no. È venuto Luca, doveva venire anche Emanuele, ma chiaramente ho preferito di no, perché la verità si è offerto, mi ha detto venga anche io, una mano, dazza, tutto come te, già ce la facciamo. Rimane da casa, la giornata venga a. Lo disipiro da voi, questa roba così pesante non ne ho mai visto, cazzo. Lo piglia e mollo a ragione, me ne ingaggi tutto in capo, per carità. E quindi niente, hanno smontato tutto, abbiamo pulito tutto, ho messo in ordine, sto a posto. Adesso devo fare uno spostamento di antenne da palo a palo, perché la manta va la metto dove c'era il traliccio, praticamente il sistema delle direttive che è molto robusto, il tubo, e la sollevo altre 4 metri. E al posto della manta ma ci metto la bibanda, capito, quella piccolina, che è giusto per fare 2 chiacchiere in PMR, poi per il resto c'ho di poli, no? Non temo più né vento, né temporali né nulla, troppo ferro c'era sul tetto Tony, ma un bel di ferro. Lo posso immaginare. Avanti Luca. Ciao Tony, dai, io sto chiedendo, uno l'ho smontato, i tappeti, perché ho tirato il display nuovo, adesso chiudo l'altro, dai. Niente, io mi devo sollevare l'antenna, purtroppo me la sollevo, piano piano, che me lo faccio. Oh, via. Niente, cosa posso dire? Boh, domattina, se sei libero, ci vediamo un caffè. Vediamo, ti avviso, anche io non avviso sempre gli imparatori, nel senso che ti avviso all'ultimo momento che devi andare lì, devi andare là. Dopodomani sono nella zona tua. Mercoledì mattina alle 10:30 per accompagnare mia moglie a San Camillo a fare una visita. Capito? Sono proprio lì. Domani ho già stamattina ero dottor Mangiare in giro, farmacia, ricette, quello e quell'altro, un casino. Speriamo che domani mangiano mi tocchi attorno a fare a vai e vieni. Meno male sono uscito in moto perché la giornata era bella. Se non devo fare niente ti chiamo, intanto ti posso chiamare. Te lo dico, ci vediamo un caffè. Cappa, qualsiasi ora, non c'è problema qua. Non c'è la mattina, mi alzo presto qui, non c'è problema. Luca, cos'è che stai aprendo, chiudendo, facendo? Se mi travagli così. Finché viene, devo sta cambiando un display a un Huawei P8 Lite. Sembra telefonini. Ui, vabbè, Angito, datemi che ho messo un bel cosciotto di 850 grammi di tacchino in forno, Claudio, e le cucinette piano piano. Buono, no, io ho fatto un minestrone da paura, ho aperto la pressione, per stanotte mia figlia esce alle 10, mi ha detto papà, voglio roba calda, non preparate carne, queste cose, voglio roba calda. Minestrone con e quindi ho aperto la pressione, me lo aspetta poco fa, bello buono, c'è un pezzo di carne dentro e così faccio prima e secondo stanotte, tutta roba calda, perché comunque sto freddo, questa notte io la sera quando vado a portare il cane c'è freddo, c'ho il berrettino in testa, c'è un botto pesante, capito, la temperatura è molto bassa la sera, è un casino. Sì, in effetti guarda, io quando mi corico faccio un freddo davvero. Mi sono messo la coperta, cavolo, la temperatura è abbassata parecchio. Guarda, domani invece mi faccio a pranzo patate e peperoni, quei gialli, mentre domani sera ho già il menù che mi sono preparato e faccio due spaghetti con un po' di ciliegino e il basilico in padella. Sì, come quella che abbiamo fatto la prima volta, sì, anche quella, io uso quella sempre, uso quella, tipo un olio, un po' al sugo col basilico, capito? Ricordati, l'aglio, basilico e via, pomodorino fresco, saltato in padella e su che andiamo. Oggi a pranzo ho mangiato la pasta lo stesso, ho fatto un po' di linguine con sugo, due linguine col sugo allungato con la besciamella, e un po' di pepe, buono. Chi è che voleva entrare, che non passava? Sì, tu, che uno vorrebbe entrare sotto, però non ci capivo nulla perché sei più forte tu, Claudio. Vediamo, chi è che vuole entrare avanti? Vabbè, se voleva farlo scemo non ci riusciva di certo perché è basso. Bene, Meda. Vabbè, mi sei ci sbatto anche un po' di olive in quelle cose con sotto i tacchino, sono ben deciso. Due o tre baratro di quelle belle olive senza nocciolo, senza osso, mi sa che le scudurento. Ma quelle verdi o quelle nere, Tori? Quelle nere purtroppo, perché quelle verdi io sto facendo le olive confette, le sto facendo 4 kg, le ho iniziate dal giorno 3. Se avevi quelle nere, vabbè, ci stanno lo stesso, però quelle verdi sono micidiali, senza nocciolo, sono ben gaddosi, quelle nere te le sciogli, hai capito? Però buttacele un po', ce la fa bene. Ascolta, rosmarino ho messo niente. Rosmarino e anche un po' di quella polverina per arrosto. Esatto, c'è un po' di cannella sopra, mettigliela, appena per il vino bianco mettici, Tony, se no si asciuga troppo. Purtroppo io vino bianco non ne ho. Ho sempre quelle famose bottiglie, quello buono mi. Io ce la beviamo questa settimana, futtendine, ci fate un po' bello, passo, salgo a trovarti e ti rivimo. Tony, quando vai a fare la spesa, come faccio io? Anch'io non ne bevo di vino a casa. Compro un cartone di quello vino bianco, di ghiscio da due citi, e te lo tieni per cucinare. Capito? Io quando faccio il pollo, lo spruzzo un po' di quello e va bene lo stesso. Capito? Ricappa. Me lo ricorderò. A pensare se riuscite a levare, fa un po' di spesa. Oggi devo fare la spesa alla 50, è venuta mia figlia. E niente, non ha cambiato una cucina, né vino né nulla. Ho tutto in casa. Cosa ho preso? Altri due pacchi spaghetti, perché io ho linguine e bucatini, però è tutta la pasta corta. Però gli spaghetti li avevo già consumati, adesso mi hai bisogno di due pacchi. Il resto ho fatto tutto quanto ho preso ieri. Ho preso il formaggio provolone piccante perché a me piace. E poi altre cose che mi si via. E vabbè, bisogna me lo prendo questo vino bianco, dai, che ce l'ho smatto dentro, e il fatto che tu mi riecheggi la garriga. No, la faccio portare al pollo, il vino bianco ci vuole, con fare scaloppine, due scaloppine, un cartone te ne prendo, un cartoncino, mi regola 1,20 euro. Ora sì, io mica lo bevo, lo lascio da una parte quando mi serve, anche se lo apri e il vino, capito, che non diventa acido. Se lo metti dentro una bottiglietta, lo chiudi e lo usi per cucinare, perché ci vuole sempre. Come stavo dicendo, cazzo me la metto, vabbè, Emanuele, sentito è? No, oggi no. Ma quando è che doveva? No, oggi doveva fare la visita, E che visita doveva fare? Ma c'è teso la tarì, devo fare una visita, la va vedendo in PMR, ma non ho capito se l'aveva già fatta, o la deve fare. Ne aveva fatta una, la Palazzo Rosa, che le ha dato delle pastiglie. Ah, c'erano quelle di Alghero, le altre pastiglie, sì, il dottore di Alghero. Quello di Sassa dice, no, quando metto cosa gli ha detto dovevo fare, ma non farlo perché l'ho fatto anch'io una cagata, anzi di immaginare, è entrato in questo lago nel polpaccio della gamba e ti ha piccole scosse da capelli che non sei più. Ah, sì, io guarda, proprio l'ospedale Marino, ma ti parlo di tanti anni fa, che c'era il professor Medici, adesso è andato in pensione, figura, dice il figlio Giuseppe, che è molto bravo lo stesso come ortopedico, però l'unica cosa che mi avevano fatto bene, te l'ho detto, era l'agopuntura. Ma ogni sofferenza, ragazzi, ma sofferenza, però mi aveva fatto bene, Tony. E poi niente. niente, poi la cura che ho fatto è quella che me l'ha entrata, quella a me mi ha sistemato completamente, ma soprattutto a quella il peso. Io a Manuele gli ho detto devi calare di peso, non c'è niente da fare. Guarda, l'ho provato con a mie spese, Tonino, io avevo quasi 15 kg in più, 15 ancora non sono sceso, sono sceso 12, però come sono sceso di peso io sono rinato, Tonino. E il capa, io ho eliminato il panno, ho eliminato un po' di cosa, però ripeto, la pasta qualcosa, ma che volta devo mangiarla, che cavolo, non dico tutti i giorni, che mangio poca, devo scendere anch'io di peso, quello lo so. Però dico questo, mi sono passato un po' più grossi di me, più grassi, muro, eppure ne discono un nane. A chi dice non ha mai fatto nulla nella vita. I suoi sforzi purtroppo, i pesi che sollevavo, i motori dell'autoclave, cioè, di latticinio, pesano un bel. Il pilota già pesa poco, ma del motore ho 80-120 kg. Io perché ce l'ho? Io c'ho l'ultimo anello della colonna vertebrale che non viene più. È lì che l'ortopedico mi ha detto stai attento perché ti siedi, e se ti siedi non ti alzi più, e quindi sono sempre all'avanguardia, sempre attento a non fare sforzi, capito? Perché quando sono iniziato a lavorare, il lavoro che facevo io mica c'erano i camioncini con le gruette, vedi i camioncini ma senza gruette, quindi di buon per troviamo i buoni a mano in altro camioncino, tirarle dai pozzetti con le catene a mano, capito? In barriata d'Eva che pigliavo travagliendo, perché se stai lavorando fuori all'aperto non è che potevi, poi le cose sono cambiate, ma io nel 91 quando ero alla Saras cattivo sempre a piedi a moglio, sempre, perché stavamo costruendo il depuratore della Saras, capito? Ero sempre a piedi a moglio, e sempre se pioveva eravamo sempre fuori, poi dal 96 in poi è cambiato perché sono arrivato a Perfuas, all'impianto di potabilizzazione, quindi ero al coperto, e poi da lì ho fatto tutto quello che ho fatto, mi hanno giubilato di imbarriare di Eva, e quindi è così, poi ne risentiamo, il problema è quello. Andare nel tempo, sì, purtroppo poche scuole abbiamo noi che possiamo avvicinarci con la macchina locale autoclave, che c'è anche nel Ticino dentro. Smonti il motore, zacca un attimino, prendi in mano, in due, e lo metti in macchina. Ma la maggior parte sono sotto all'interno della scuola, l'università fa forza sopra, e piano piano, caro mio, te lo devi portare fino a fuori. Poi scende, lo porta alla giostrale, dall'Urviso, lì a Caniga, poi quando sei pronto ti chiamo, devo andare a ritirarlo, riportarlo giù di nuovo e ripiazzarlo, insomma. E poi abbiamo 64 scuole, non è che ne avevamo una solo, e quando comincia a facciarsi un'autoclave, comincia a facciarsi la bomba d'incendio e poi la cura, è un casino. Si conferma così. Dove le portate le pompe? Non le portate alla sera da Podiche, no? Da Urviso le portate? Sì, da Urviso a Caniga. No, noi ci servivamo da Podiche, per quanto riguarda la parte meccanica più che altro, indotti, queste cose così, cuscinette, balle varie, staffa, eccetera. Gli avvolgimenti ce li faceva la sera ex... A lui è a tuo figliotto. Dove si può avere? E lui è indietro, a Bozzi. Vabbè. Cosa volevo dirti? Non la metto più. Ecco qua, chi c'è la vecchiaia? Niente, oggi sono andato in azienda. La segretaria mi ha detto, a tu. Ma perché non si ferma che c'è già l'età e questa pensione? Ma io la domanda l'ho già fatta, sono in attesa. Quindi, gli ho spiegato quel fattore là, il 74% di validità. In su, praticamente danno ogni anno 2 mesi di scivolo. Quindi, ho recuperato 8 mesi praticamente, perché la mia l'hanno accettata una per l'invalidità il 1° settembre del 2016. Quindi sono 8 mesi che ho recuperato. Siamo in attesa, tutto qua. Fatto per me, ormai sono vecchietto, io non è vecchietto, mi ha detto, già se porta bene, si maglia c'ha che viraggio. Guarda, se non è per tenere il disco, pregate, non me la davo né ferie né malattia né niente. Continuavo a lavorare, sino all'altro anno. Purtroppo, se ho fatto una domanda vuol dire che non me la faccio più. Stai attento, fate bene i conti. Lo sai che la missione ti fanno l'accumulo, sino a un certo tot ti fanno l'accumulo con la contributiva, quindi attenzione, fatevi bene i calcoli, perché molti sono convinti e prendo la pensione invalida più prendo la pensione di contributiva, non funziona Guscimi. Ma guarda, a me l'ha detto il patronato e l'ha detto anche l'Inps, poi lo rivalutiamo prima che mi dà un occhio. Appunto, anche l'Inps ci dice un bel di guglionardi, sta attento, capito? Perché è successo a mia moglie, quindi te lo sto dicendo per esperienza vissuta. Stai attento, perché fanno l'accumulo, Quanto prendi di pensione? X, facciamo una cifra, 800 euro, no, non ti sto facendo con i tasca, sto facendo una cifra, 800 euro di pensione invalidità, quanto c'hai di contributi versati? Tanto, fanno l'accumulo, sino arrivi a 1300 euro, Non pensa che ti do ghianeghiscia, più 1300 euro della contributiva, Mio fratello è rimasto oltre 2 anni a lavorare, poteva andare già da 2 anni fa, è rimasto proprio per questa stronzata, perché anche mio fratello c'ha un'invalidità al 95%, capite? E sta lavorando e prende la pensione, come te, e sta lavorando e prende la pensione invalidità, ok? Però volevano fare il gioco a Vaglio, dice, no? E allora rimango a lavoro, qua decido io quando andare via, si ha 67 anni per andare via, fallo via a 67 anni, non me ne affutti nulla. Beh, io sto ancora lavorando, guarda un po', nonostante che c'ho sta 5% di invalidità, comunque, e la pensione è gioco biglietti, io ci ho provato, comunque adesso vediamo cosa mi dicono, la risposta, e poi sappiamo quanto è l'importo, perché se non mi conviene, assolutamente, rimango continuo a lavorare in una zanna e buh. Stai attento, perché il sistema è quello, capito? Se uno ha la pensione di invalidità, che sia minima o che sia massima, fanno poi l'accumulo con la contributiva, capito? Quindi quanto mi dici pensione di invalidità 800, arrivare, tu devi arrivare come pensione a 1400 euro, 1400 euro miglia, non è che pigli una e l'altra, capito? È un gioco un po' carognoso, perché mia moglie è andata via col minimo, perché è una donna, se me ne vado, poi non c'erano grosse difficoltà, grossi problemi, e adesso si è trovata capo, capito? Perché prende praticamente mezzo e mezzo, non prende una intera e l'altra mezza, no, piglia mezzo e mezzo, capito? Sì, a me mi ha detto che bella unifica, no? Praticamente per uno è normale sia di vecchiaia, che sempre i contributi che ha versato, e più quella di validità, capito? E quindi? Esatto, unificata, esatto, unificata. Ma non arrivi mai a prendere quello che prendi lavorandomi, come è successo a me, capito? Quindi, come è successo a me, io grazie a Dio non percepisco nessuna pensione di validità, però pensavo di andare con una buona pensione, invece mancano i 400 euro dallo stipendio che pigliavo, capito? Se no sei esento, non ho fatto bene i calcoli, perché non è che io avevo uno stipendio praticamente sempre fisso, avevo soprattutto nel periodo estivo un incentivo, un bonus, perché non mi calcolavano lo straordinario, ma praticamente tra reperibilità e tra tutti i turni che facevo in più c'era un bonus mensile che mi davano, quindi avevo un buon stipendio. Pensavo di fare un buon accumulo, visto che i contributi erano tanti, invece la giubilea da in culo, capito? Per quello te lo sto dicendo, perché non funziona come le farfalle. Molti sono convinti che sono tutte rose e fiori, non funziona così, no. Io ti vado in impici di calcoli alla buia. Ma guarda, allora, sinceramente, io mi sono anche informato bene, ero anche delegato sindacale, quindi tutt'oggi questa legge non è mai cambiata. A me quando vado in pensione mi danno il 20% in meno sulla busta paga di quello che prendo, e questo non ci piove perché è così, Claudio. Quindi io prendo un 1,350, 1,330, oscilla lì, più prendo quelle 830 euro della pensione. Quindi a me volerà 1,100, fai sul cavolo di pensione e contributi che ho versato, 1,100 lo prenderò. E anche 2-3 euro, non mi dà una serie o 1,400, ma vabbè Claudio, che capita, ci vivo tranquillo, certo non come adesso, perché sto lavorando e ho più pensione, ma non me ne ha fottuta, però ripeto, non ci paga nulla, Anzi, viva tranquillo, e non devo dare niente a nessuno. Sì, ma per carità, ma va benissimo. E a chi cosa? Tu fai vicini pensionati, gli altri viranno in bella pensione. No, io prendo molto di più. Prendo molto di più, però vabbè, tu sei provinciale, io ero regionale, quindi è così. Però sto dicendo, fanno questa stronzata, capite? Fanno questa stronzata. Sì, anche a me mi hanno tolto il 20%. Io sono stato pensionato con l'ultima busta paga praticamente, con 41 anni di contributi versati, perciò 20% in meno dal conteggio che aveva fatto il CAF, che poi aveva confermato l'INPS. Quindi non mi posso lamentare per quello, però sto parlando di quelli che hanno questa pensione, come mio fratello, no? Mio fratello prende, sì, mi pare che prende sugli 800 euro, lo stesso di pensione invalidità, e più prende un buon stipendio. Prende un buon stipendio, lavora all'ACI in ragioneria lì, all'ufficio tecnico. Prende un buon stipendio, non la verità. Però quando è andato a farsi fare i calcoli perché voleva andare in pensione, appunto, 6 mesi fa praticamente sarebbe andato in pensione, invece ha continuato a lavorare. Mi bagnano i bugatti quasi in un 40%. Ma non te ne vai, ma cazzo lavoro, cosa me la fotti? No, che c'ho da fare piccolo, sono in ufficio e continuo a lavorare. Ma guarda, sinceramente, a pensare che sono persone che manco le prende quella pensione lì, prendono due cittiche. Io mi ho cognato che lavora in edilizia, oggi lavoro, domani no, insomma sta pigliando roba di 12 volte la disoccupazione speciale. Ha detto tu domani in pensione, non i bichi, perché adesso l'Inps te l'ha dato, poi comincia a scalare su quelli che ti ha dato. Non è così, è così, perché mi sono informato. Io ormai in vita mia l'ho presa, non ne ho avuto bisogno, grazie a Dio. Se avevo bisogno prendevo anch'io, non mi costa nulla fare la domanda. Ma siccome ho sempre lavorato continuo io, dalla barca all'acqua, 10 anni là, 22 anni qua, 4 anni lì, 3 anni lì, capito? Quindi niente, lui lavorava quei 5-6 mesi, licenziato, mi dice con passione, faccio sempre così. Adesso te ne vanno, stai bene. Un domani poi, caro mio, vai alla pensione e ti alzi la cazzata. Ascolta, ma lui praticamente prendeva la vecchia disoccupazione speciale, che c'è la speciale ordinaria, ma quando è entrata in funzione la NASPI, la NASPI è contributiva, eh? Bene, la NASPI sono sempre soldi, però giustamente che non lavora e l'INPS si toglie, capito? Perché la NASPI, se sei benissimo, ti dà, mi sembra, non so se era il 90% o 100%, poi calava, ogni 8 mesi calava, poi l'80, il 60, lo sapevi questo? Sì, registrato. Beh, certo che lo sapevo, e a voglia che lo so, lo so, e prima di fare il passo che ho fatto mi sono documentato, perché io volevo fare, l'azienda con me voleva fare un accordo, si abbassa il BMR perché stanno a voci, l'azienda voleva fare un altro tipo di accordo che io non ho accettato, invece poi siamo messi d'accordo, quindi abbiamo fatto una cosa a livello sindacale fatta bene, dai, per darmi la possibilità di andare 2 anni prima, visto che avevo la documentazione come lavoratore precoce. Tutto qua, avanti break. Io non sono Marco, buonasera Lupo Grigio, ben ascoltato, finalmente ti ascolto. Beh, se sei da queste parti arrivi benissimo. Sono Claudio Sparviero in compagnia di Tonino Cavasacchi, avanti riprendi. Ok, ti ho detto sono Claudio, e sono Claudio Sparviero, non sono Marco, va bene Nicola, ben ascoltato, vediamo un po' se ti ha sentito Tonino, avanti Tonino. Ciao Lupo Grigio, ma proprio QRM vedo lo Smith che solleva da 5 a 6, 6 e mezzo, non di più, ma la radio molto QRM, mi dispiace, ma stavo un giorno con un antennino senz'altro, se non l'avessi sentito. Altre volte l'ho sentito, però oggi niente, non ce la faccio. Dalle mie parti sicuramente in macchina col portatile, capito? È per quello che l'ho sentito, è per quello che l'ho sentito. Sta pompando questa radio? Sai che mi sono spaventato da poco, Claudio. E perché? Allora, avevo sistemato tutta la stazione nel mobile, no? Tutto messo a posto a quanto. E ovviamente quando ho rimesso tutta la stazione, c'era il marachino, vado a schiacciare e fare prova, niente, lo smetto saliva e niente radio, zero. Pronto di canale, niente. Ma sono stato, guarda, a roba di 2-3 ore impazzendo. Alla fine indovina cosa c'era. Non c'è vera, l'antenna staccata. No, ma che idea.